GR Europa. 3 minuti con l'Europa in questo 8 gennaio. La prima purtroppo non è una buona notizia ed è quella che ci racconta come continua a peggiorare il quadro del mercato del lavoro nell'area euro. A novembre la disoccupazione ha toccato un nuovo massimo storico, 11,8% contro l'11,7% del mese precedente di ottobre. Dunque, secondo le cifre diffuse da Eurostat, in un mese si sono persi 113.000 posti di lavoro. Dopo 5 anni di crisi economica e con il ritorno della recessione, la disoccupazione ha raggiunto picchi che non si vedevano da quasi 20 anni. I redditi delle famiglie sono calati e il rischio di povertà e di esclusione sta aumentando, soprattutto nell'Europa meridionale. Il quadro, a dire il vero non nuovo, è quello tracciato dalla Commissione europea. Bruxelles richiama l'importanza dei sistemi di welfare nazionali, determinanti nell'affrontare la disoccupazione e tutte le conseguenze che ha portato e che porterà, visto che i dati non accennano a migliorare. A novembre in Eurolandia i disoccupati sono stati quasi 19 milioni, oltre 2 milioni in più rispetto all'anno precedente. A pagare un prezzo alto soprattutto i giovani e soprattutto in alcuni paesi che non a caso sono quelli più colpiti dalla crisi e dalle misure imposte dall'Unione Europea: Grecia, Spagna e Portogallo. L'Italia è al quarto posto con una disoccupazione giovanile al 37,1%, dove per giovanile si intende la fascia tra i 15 e i 24 anni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Italia condannata per il sovraffollamento delle carceri. La Corte di Strasburgo, che ha emesso la sentenza questa mattina, parla di trattamento inumano e degradante. Adriana Fracchia ne ha parlato con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Non è la prima volta che l'Italia viene condannata in relazione al sovraffollamento delle carceri per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che ricordiamo è quello che impedisce, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Oggi forse con questa sentenza la Corte intima all'Italia di risolvere entro un anno il problema del sovraffollamento delle carceri e dichiara questa sentenza una sentenza pilota, vale a dire una sentenza che poi verrà applicata in maniera praticamente automatica a tutti i potenziali casi analoghi che arriveranno a Strasburgo. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, intervistata da Adriana Fracchia. Un'ultima notizia: non ci sono ancora studi precisi, ma a causa della crisi economica sta avvenendo una mobilità ampia in Europa e gli immigrati che ieri dalla Spagna venivano in Italia, oggi dall'Italia vanno in altri paesi. Lo ha sottolineato Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale di Migrantes, la fondazione della Conferenza Episcopale Italiana, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Bene, i nostri tre minuti in Europa si concludono qui. Un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia. L'appuntamento torna domani poco dopo le 3. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.